arrivato. Chi cazzo ti è arrivato? Sbuco dalla padella mentre ti fanno stufato. Arrivo dall'inferno col cervello alcolizzato, gli occhi da sballato, il fegato ingrossato, il cuore si è fermato. Chiamate il mio avvocato. I cartoni che ho mangiato mi ha bruciato il palato, e adesso giro allucinato in un uomo fatato, spaventato dai folletti. Ma fatto sono buffi, vedo che apparenza che si chiappette i puffi. E tu che cazzo stufi, worker tattico ciuffi, che dal palco di Sanremo fai tutti sulla folla. Mio fratello rolla, incolla la cartina, scaldando la panetta sul fornello da cucina. La fumiamo in compagnia di dei Filippi Maria. Siamo noi i veri amici, gli amici di Maria. La mischio col tabacco, in filtro di cartone, la incollo nella carta e pronto il mio canon. Se fumo senza sighi, mi sento Apollo Creed. Un ciocco di Marocco, skunk e purple weed. Fumo tanto, proprio tanto, non me ne rendo conto. Mi fumo 5 grammi in 6 minuti e 8. E se faccio lo sgorrotto in 18 minuti, vedo critichi sbavare sul culo di Carla Plumi, okay. Supponiamo che stia davanti alla D'Urso, e durante l'intervista nel bel mezzo del discorso mi alzo dalla sedia e mi vomito addosso. E tutto il pubblico scosso comincia a parlarmi storto. Colpa della purple, una profumata troppo. Ingerisco l'alcol per togliere l'intoppo. Né ketone speed, né trippe né oppio. Tutta colpa di Morgan se ora vedo doppio.